tua madre. Poi stanotte ti fa squillare il telefono se non ti togli davanti il coglione, capito? Che stanotte faccio schiattare quella grande bagassa nonna tua, capito? E non ti coglioni! Che è successo? Che ieri no, quando avanti ieri mi hanno proprio le scarpe. A dire che c'è Gian Michele a casa di Christian. Io non è che so geloso che quello va a casa di Christian. Ma non ci credo perché... quello figurati non... va dagli amici suoi, mica va a casa di gente che nemmeno ho capito. E quella bagassa di tua sorella. Ma dov'è? Ho bagassone, abbatte. Silvana. No, è 24, 3, 3, 6, 4. Siamo a te, vai e caga, vabbè, fatti a merda, assieme all'amico Carletto, l'amico tuo Carletto, capito, vabbè. Che casa mia non è casa di Flosci, ma non è che non ti ho fatto venire a casa mia. Capito, che casa mia non è casa di Flosci come te, no? Capito. Autoin, la madre di Autoin, il fratello di Autoin, ma tu, capito, non ci puoi manco venire, capito? A me ne puoi prendere a cacciare in culo, ma te c'è mio fratello che è più grasso di me, capito, bastardo, fionchio. Hai capito che mi hai rotto i coglioni? Mi hai rotto i coglioni! Le colline sono bocca! Sono in mezzo! Sì, è del combo!